la vita tanta la fatica per imparare a nuotare, tanta la fatica per uscire dalla merda primordiale. Piccole creature che si fanno la guerra per la divisione degli spazi sudditi sulla terra. Ed ebbe inizio un giorno la vita sulla terra, poco dopo l'uomo gli accetti fa il primo fuoco. Consumare per la massima felicità, che di generazione in generazione questo pensiero assurdo ha spinto l'uomo col suo assurdo progetto. Tanta, tanta la fatica della vita, tanta la fatica per imparare a nuotare, tanta la fatica per uscire dalla merda primordiale. Consumare massima felicità, hey! Massima felicità, consumare, ah! Consumare massima felicità, hey! Uno che divenne re e come un re regnava incontrastato, esercitava il suo potere sul popolo incosciente, troppo debole, ignorante, sotto la popolazione ai piedi della torre, sotto solo sola la popolazione ai piedi delle torri. Tanta, tanta la fatica della vita, tanta la fatica per imparare a nuotare, tanta la fatica per uscire dalla merda primordiale. Piccole creature che si fanno la guerra per la divisione degli spazi siti sulla terra. Consumare massima felicità, hey! Consumare per la massima felicità, che di generazione in generazione questo pensiero assurdo ha spinto l'uomo col suo assurdo progetto. Tanta, tanta la fatica della vita, tanta la fatica per imparare a nuotare, tanta la fatica per uscire dalla merda primordiale. Consumare